Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Quante volte, speriamo poche, è capitato e continua a succedere una meritata vacanza nella meta esotica appunto dei nostri sogni si trasforma in un soggiorno da dimenticare per il turista che aveva acquistato appunto il pacchetto vacanze. Oppure nella camera dell'hotel a 4 stelle, il condizionatore d'aria che non funziona, ma oltre a questo addirittura può perdere anche l'acqua, oppure non è stato comunicato l'anticipo del volo o l'appartamento affittato non corrispondeva alla pubblicità del catalogo fornito prima della partenza. Quale sarebbe la nostra reazione se ci dovessimo trovare di fronte a qualcosa che non assomiglia neanche lontanamente a quanto c'era stato promesso e che abbiamo acquistato? Sono molte le problematiche che possono determinare una vacanza rovinata. Oggi vogliamo dare qualche consiglio su come comportarsi, piccole dritte per cercare di non rovinarsi le ferie. Tutte le associazioni dei consumatori sono pronte a darci una mano. Vi segnalo per esempio lo sportello del turista di Confconsumatori, ma in realtà sono tutte attive su questo versante. Faremo un commento anche se come ricorderete una puntata sull'argomento appunto l'abbiamo già organizzata se non ricordo male ad inizio luglio sulla situazione egiziana, perché le tensioni politiche in quel paese come ricorderete hanno portato molti italiani a rinunciare alla partenza. Come sono stati riprotetti, sono stati in qualche maniera anche risarciti, indennizzati appunto per questa circostanza? D'altronde ogni estate ha la sua disavventura, ricorderete le puntate che lo scorso anno abbiamo dedicato alla situazione di Winjet, la compagnia appunto aerea siciliana andata in bancarotta, che ha lasciato appunto a piedi molti turisti in pieno agosto un anno fa. 800 24 00 24, il numero verde per voi, raccontateci la vostra. Vi è capitata appunto di qualche vacanza andata a male perché l'avevate organizzata in maniera anche superficiale, oppure perché vi siete rivolti magari ad operatori non proprio professionali? Allora confrontateci con noi e commenteremo le vostre avventure con Pier Giorgio Reggio, amministratore delegato di Mondo di Vacanze Network, che raggruppa circa 700 agenzie viaggi appunto nel nord e nel centro Italia. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Curioso trovare un ospite che venga in studio in questo periodo, per cui la ringrazio doppiamente. Al telefono naturalmente due legali che ci possano dare tutta la loro assistenza questa mattina: l'avvocato Vittorio Buonaguidi, giusconsumerista, avvocato di Telefono Blu. Avvocato Buonaguidi, buongiorno. Buongiorno a voi. E buongiorno anche all'avvocato Alessio Costantini, consulente legale di ASTOI, l'associazione appunto dei tour operator aderente a Confindustria. Avvocato Costantini, benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno. Eccoci qua. Allora, naturalmente, oltre al numero verde, i nostri ascoltatori hanno molte modalità per poter interagire con noi. Siamo in diretta anche oggi, ci potete scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook al profilo salvadanaio-radio24 e anche su Twitter. Prima di tutto questo, un'occhiata ai mercati finanziari. La campanella di Wall Street, in realtà questa mattina la così movimentiamo per raccontarvi come sempre la giornata di borsa in Europa. Giornata contrastata, rimane ancora positiva Milano che guadagna lo 0,30% sul FTSE MIB, mentre prevale il segno meno sulle altre piazze europee, con Francoforte che perde lo 0,7%, Londra meno 0,59%, Parigi meno 0,35%. Molto brusca stamattina la caduta del mercato giapponese, il Nikkei meno 4%, il tema è sempre quello: cosa faranno le banche centrali nei prossimi mesi. Andiamo a vedere a Piazza Affari i titoli in maggiore movimento, ne abbiamo già data indicazione nel giornale radio. È in recupero Telecom dopo giornate molto difficili, seguite a tutta una serie di notizie, anche i conti sono stati molto penalizzati venerdì scorso dal mercato, oggi il titolo rimbalza del 2,80%. Mercato che invece plaude ai risultati di Unicredit, comunicati ieri pomeriggio, già il titolo ieri protagonista degli scambi, positivo anche oggi in rialzo di altri 2,5 punti abbondanti. Popolare dell'Emilia Romagna più ne 98, Monte dei Paschi che comunica oggi i suoi risultati guadagna quasi 2 punti, e poi nuovo rialzo dell'1,72% per Fondiaria Saipem. La Consob accende il faro sul bilancio 2012 di Saipem, già al centro di vicende giudiziarie piuttosto importanti. Il titolo per tutto questo perde 3,5 punti. Mediaset frena la sua corsa, diremmo quasi folle, da inizio anno, più 120% da gennaio. Oggi il calo per il titolo del Biscione è di 3 punti e gli operatori abbandonano anche oggi Pirelli, che perde l'1,79%. Per la borsa è tutto. Il tema di oggi: parliamo di vacanze e soprattutto di quelle che non vanno esattamente come vorremmo. Concedersi una vacanza in assoluto relax è il sogno di tutti, ma può capitare di imbattersi in una vera e propria fregatura. Sono tante le problematiche che possono trasformare la vacanza in un incubo. Dalla mancata comunicazione dell'anticipo del volo, al villaggio scelto per servizi che poi non sono garantiti, per le escursioni mancate, le carenze igieniche delle strutture o addirittura villaggi e hotel esistenti solo sul catalogo. Ma com'è possibile difendersi e correre ai ripari? Innanzitutto, quando si prenota, è bene conservare la documentazione data dall'agenzia o dal tour operator e dei plian con la descrizione del posto e dei servizi. Arrivati a destinazione, se qualcosa non va, è bene procurarsi con foto o video la prova concreta di strutture e servizi inadeguati. Nel caso di infortunio, meglio fotografare il punto dell'incidente e conservare la ricevuta medica. Fondamentali poi i riferimenti di testimoni nel caso si decida di chiamarli a testimoniare in un'eventuale causa. Ma in quali casi possiamo chiedere assistenza e cosa possiamo fare una volta a casa? Circa i pacchetti turistici, il consumatore ha diritto al risarcimento del danno in caso di mancato o inesatto adempimento da parte del tour operator, ossia l'organizzatore, o dell'agenzia di viaggio che ha venduto il pacchetto. È possibile chiedere il risarcimento per i viaggi in treno in caso di ritardi e disservizi. Per chi viaggia in autostrada, i casi che possono dare luogo a risarcimento danni sono ad esempio i rallentamenti per cantieri, incidenti, scioperi o maltempo. Oppure se il danno deriva dalla scarsa manutenzione del manto autostradale. L'omessa segnalazione di pericoli come cantieri o incidenti, la presenza di chiazze d'olio o di animali abbandonati. Infine, anche chi sceglie la nave ha diritto ad agire nei confronti dell'armatore o del vettore se ha subito danni all'imbarco o sbarco, in caso di mancata partenza del traghetto o di ritardo. 800 24 00 24, il numero verde per gli ascoltatori. Abbiamo presentato una rosa abbastanza ampia di tutti i disagi in cui ci possiamo imbattere appunto durante le vacanze. Pier Giorgio Reggio, chiaramente parliamo anche di circostanze estreme per quello che riguarda appunto alcune di quelle che abbiamo raccontato nella nostra scheda. Forse il disagio più importante quest'anno è quello che stanno subendo molte famiglie che non hanno i soldi per andare in vacanza. Come stanno andando le cose? Peraltro poi parleremo anche delle disavventure e di come tutelarci. Ma guarda, oggi il mercato sicuramente sta subendo una flessione legata al momento storico che stiamo vivendo. Purtroppo il segmento che sta subendo in questo momento la crisi più importante è il segmento charter, cioè la vacanza cosiddetta più rigida, quella organizzata a 7-14 notte, mentre sta andando decisamente molto meglio tutto il segmento tailor-made organizzato su misura. Dati recentissimi danno un andamento addirittura almeno 17% sul calcolo delle teste, cioè dei passeggeri movimentati. È un dato sicuramente molto negativo, ma ci sono anche delle eccellenze in alcuni evidenti situazioni dove il cliente in un momento di crisi particolare ha deciso di affidarsi prevalentemente a professionisti del settore. Quindi ci sono anche alcuni gruppi di distribuzione che invece presentano dei dati assolutamente positivi, proprio perché forti della loro professionalità e della garanzia che riescono a derogare e a dare al cliente. Secondo lei ci si risolleverà almeno questo mese? Settimana scorsa abbiamo dedicato una puntata al tema della vacanza dell'ultimo momento, magari qualcuno ci ha ripensato, così magari a costo di fare un sacrificio in più ha deciso ugualmente di dedicarsi giustamente qualche giorno di riposo, scegliendo magari una località italiana oppure anche una estera ma vicina a noi. Ci sarà, come dire, un recupero last minute per il settore? Sì, storicamente sempre questo è il periodo dei cosiddetti last minute, quindi le offerte da ultimo minuto, e bisogna sempre stare molto attenti perché è proprio in questi momenti che si rischia sempre di cadere in errore. E si risolleverà in questo periodo e si sta già risollevando leggermente in termini di numerica di passeggeri, ma anche qui il volume medio dello scontrino è più basso e quindi in termini di volumi complessivi non sposterà poi più di tanto il dato complessivo, che poi sarà il dato di chiusura. La ricerca esasperata di risparmio, secondo lei, aumenta il rischio di incappare in qualche qualche disavventura in vacanza? Ma assolutamente sì, perché poi si cerca e si mette sempre ed esclusivamente il prezzo come primo motivo di scelta, e spesso non si sta e non si dà la giusta attenzione a quelli che sono poi i dettagli della vacanza. Quindi io è proprio in questi momenti che consiglio di prestare la massima attenzione al pacchetto di vacanza che si sta prenotando, leggendo con molta attenzione tutte le descrizioni e i dettagli presenti nel pacchetto che si sta per acquistare, e soprattutto affidatevi sempre a professionisti del settore anche in occasione di vacanza ultimo minuto. Frecciatina all'online, che poi commenteremo nel corso della trasmissione. Tra l'altro, a proposito di quello che ci stava dicendo, poi vado anche agli altri ospiti, mi chiedevo, visto che gli italiani sono anche piuttosto scaramantici, si assicurano per la vacanza? In genere la polizza assicurativa è quell'elemento a cui si pensa per ultimo, e magari si cerca di evitare di spendere pochi euro in più per tutelare tutto il proprio pacchetto. No, oggi devo dire che il volume di vendita delle polizze assicurative cosiddette facoltative sta crescendo, e questo è un dato assolutamente positivo, perché comunque tutela maggiormente il consumatore, ma tutela anche l'organizzatore e in questo caso l'agente di viaggio. L'attenzione è massima anche sull'aspetto assicurativo, e anche su questo invito il consumatore a prestare sempre la massima attenzione alle polizze facoltative che vengono proposte, soprattutto sulla base di quelli che sono le condizioni che vengono previste dalla polizza stessa. Allora, 800 24 00 24 numero verde per le vostre domande. È già pronto Filippo da Catania. Allora, prima di sentire i nostri due legali a nostra disposizione, sentirei subito cosa è successo al nostro ascoltatore, così vivacizziamo immediatamente il nostro programma con dei casi concreti. Filippo, benvenuto, buongiorno. Intanto le dico che a Catania, lo sa che lei ha lo sportello del turista di Confconsumatori, quindi glielo dico, magari vuole andare a servirsi direttamente da loro. Ci dica. La ringrazio, mi sente bene? La sentiamo molto bene. Come spiaggio? Ok, perfetto. Io beato lei, guardi un po'. Noi siamo qui con l'aria condizionata. Ci lavoro, non per piacere, ci lavoro. Ci dica. Ecco, semplicemente mia moglie attualmente a Santo Domingo ha acquistato un biglietto di quelli aperti per un anno per un problema in famiglia che poi si è tramutato in un lutto della mamma. Nel frattempo è stata investita con gravi conseguenze, ha subito anche operazioni e cose varie. Io volevo sapere se in qualche modo poteva esserci una forma di risarcimento, non sapendo se il biglietto comprende una forma di assicurazione, certo. Ed eventualmente a chi rivolgermi, se rivolgermi in loco o presso l'agenzia dove è stato acquistato il biglietto. Allora, era assicurato. Cosa produrre? Filippo, questo è un caso abbastanza particolare e direi tra quelli che ho definito prima estremi. Cerchiamo di capire dai nostri legali che cosa può fare naturalmente per ricevere in qualche maniera un indennizzo. Avvocato Bonaguidi, la metto subito all'opera questa mattina come legale. Come gestirebbe questa situazione del nostro ascoltatore? Intanto poi parleremo dell'Egitto, perché abbiamo tanti altri temi di grande attualità di cui appunto parlare oggi. Ma se ho ben capito, il caso che riguarda l'ascoltatore è un caso che può vedere una tutela e un risarcimento, perché mi pare che abbia ma legata al biglietto aereo che ha comprato? Beh, sul biglietto aereo è più complicata, sarebbe molto più facile su un pacchetto vacanze sicuramente, perché ha citato due episodi, sia il primo ma ancora più il secondo, che riguarda, se ho ben capito, il fatto che la signora è stata investita, quindi assolutamente un infortunio che non poteva essere definito con la solita questione della patologia pregressa che ben conosciamo, cioè di situazioni che erano già presenti in passato. Quella è una situazione nuova che quindi è inaspettata e che può essere fatta valere, a mio avviso. Sul pacchetto aereo è più complicato, però se sono state stipulate, come ben veniva detto prima, delle assicurazioni facoltative, quelle possono anche sopperire a questo tipo di esigenze. Ma io adesso non so peraltro come funziona il sistema assicurativo in questa località, ma immagino che un'assicurazione ce l'abbia anche l'autista di quella vettura che ha investito questa persona. In quel caso, no, Bonaguidi, cioè non so, la prima cosa no, mi viene in mente. Forse io magari ho sentito male perché sentivo un po' distante, però mi sembrava che l'ascoltatore avesse chiesto cosa poteva fare la signora per il biglietto aereo che aveva già acquistato. Non so se ho capito bene. No, certo, se no ho capito benissimo, io ci aggiungevo una cosa in più. Sì, sì, sì, sì. Volevo aggiungere altro? No, questa è un una prima idea. Ecco, una prima idea. Allora, mettiamo a confronto, se vuole, con quella dell'avvocato Alessio Costantini, però con lui in realtà volevo introdurre il tema Egitto. Proprio con Astoi abbiamo affrontato le ricadute della crisi politica appunto in Egitto ad inizio luglio. E, avvocato Costantini, adesso magari lei ha un po' meno sotto controllo, essendo un legale, il tema del flusso turistico verso questa zona, ma tutto sommato, nonostante la tensione non si sia totalmente ridimensionata, gli italiani continuano a partire a flussi anche molto consistenti a livello settimanale. Siamo ancora sicuri che nelle località più gettonate dal turista internazionale, perché non sono solo gli italiani che vanno a Sharm, a Durgada, nelle altre belle località appunto egiziane, si continua ancora ad andare regolarmente? Sono ancora consigliate le partenze? Guardi, i flussi turistici continuano verso l'Egitto continuano ad essere abbastanza regolari. Chiaramente c'è stata una flessione, ma questo era logico che avvenisse date le informazioni di stampa che si sono succedute nelle ultime settimane. Per quanto concerne le situazioni di crisi locale che si possono verificare, i tour operator generalmente fanno riferimento, anche nell'ambito delle loro condizioni contrattuali, alle informazioni che sono riportate nel sito Viaggiare Sicuri, che è gestito dall'unità di crisi della Farnesina e che viene considerato sostanzialmente, diciamo, un sito altamente qualificato e attendibile per rilevare situazioni appunto di difficoltà che possono esserci, sia meteorologiche, sia climatiche, sia ovviamente geopolitiche, che possono verificarsi nei vari paesi. Questo non per diffidare delle informazioni degli organi di stampa, ovviamente, ma perché indubbiamente una informazione proveniente da un'autorità governativa che può disporre anche della rete consolare molto ramificata, sicuramente gode di un grado di affidabilità e attendibilità maggiore. Ecco, però volevo dirle, avvocato, la situazione appunto in Egitto si è deteriorata improvvisamente e nonostante le rassicurazioni che in certi casi appunto, anzi completamente, diciamo totalmente in questo periodo la Farnesina ha fatto, è anche abbastanza legittimo appunto se una famiglia decide di rinunciare a questo viaggio, ha anche appunto, come dire, tutto il diritto di poterlo fare, perché è spaventata. Guardi, perché teme appunto che la crisi si allarghi anche alle località balneari più note. Cioè, in quel caso non vanno... È un tema che abbiamo affrontato molte volte purtroppo negli ultimi anni, soprattutto dopo l'11 settembre, quando c'è stata una recrudescenza del terrorismo internazionale. La linea di condotta è questa: in presenza di uno sconsiglio, vale a dire di una provvedimento dell'autorità, dell'unità di crisi, che sconsiglia appunto i connazionali da recarsi in una certa località, i tour operator consentono l'annullamento senza penali e offrono una riprotezione, cioè una partenza su una destinazione diversa, comparabile ovviamente a quella iniziale. Questa è la policy che viene adottata dagli operatori, che dipende anche dal fatto che in molti casi le situazioni di crisi sono localizzate in aree ben circoscritte e definite di una nazione. È evidente che se si verifica una situazione di un attentato o un'altra situazione di crisi in una località che dista 300-400 chilometri da quella di vacanza, è un po' più complicato ipotizzare che ci possa essere una situazione di pericolo. Per quanto riguarda l'Egitto, per esempio, vedevo questa mattina appunto il sito Viaggiare Sicuri, dove leggo che viene sconsigliata l'effettuazione di viaggi con destinazioni diverse dai resort situati nelle località turistiche del Mar Rosso, il che significa che in pratica chi volesse andare in una località che non è compresa in quella che è indicata dal sito, ebbene, questo viaggio è sconsigliato e a quel punto il cliente può ottenere queste tutele. Sì. Però di nuovo i resort e quindi le località turistiche del Mar Rosso, leggo appunto nel sito, in queste località non si registrano al momento elementi di criticità. Come diciamo da inizio luglio, da quando l'emergenza è scoppiata. Pier Giorgio Reggio, il vostro network come ha gestito questa situazione? Ma come giustamente diceva l'avvocato, la problematica dipende intanto dalla situazione emotiva del consumatore, che è legato naturalmente dal flusso di informazioni che riceve in questo periodo e relativa agli scontri legati appunto alla situazione Egitto. Purtroppo in questo momento la situazione Su quello che riguarda l'Egitto cosiddetto classico, quindi l'itinerario crociere, Cairo, risulta essere sconsigliato dalla Farnesina, ma tutto quello che riguarda l'itinerario vacanza cosiddetto Mar Rosso, quindi Sharm, Hurghada, Marsalam, Berenice, non è presente lo sconsiglio sul sito della Farnesina, come diceva giustamente l'avvocato, quindi il sito Viaggiare Sicuri, pertanto il cliente non ha la facoltà di annullare senza penali o richiedere una riprotezione senza penali. I vostri clienti che cosa hanno fatto? Hanno accettato le riprotezioni che avesse deciso di non partire completamente oppure appunto hanno chiesto indennizi integrali? Allora, la difficoltà principale è appunto spiegare al consumatore la differenza tra quella che è l'itinerario dell'Egitto classico che è sconsigliato dalla Farnesina e quello che è l'itinerario legato appunto alla vacanza del resort nel Mar Rosso. Una volta spiegato questa situazione, quindi sia l'aspetto più tecnico legale ma poi anche l'aspetto di sicurezza personale, il più delle volte il cliente poi ha deciso di proseguire la propria vacanza. Quindi in termini di annullamenti devo dire che noi non abbiamo registrato un grande numero di annullamenti di vacanza sugli itinerari in Mar Rosso. C'è stato un leggero flessione su quelle che sono le nuove prenotazioni, anche perché comunque il Mar Rosso è un itinerario, una destinazione molto richiesta soprattutto nelle vacanze cosiddette da ultimo minuto, e questo sicuramente ha indotto il cliente che si appoggiava all'agenzia di viaggio a richiedere l'ultimo minuto a richiedere destinazioni differenti. Allora, andrei ad affrontare adesso altri casi. C'è Mauro che ci scrive a salvadanaio@radio24 nel 2007, un caso vecchio, però magari ci può servire appunto per affrontarne anche di nuovi, perché questo è un caso abbastanza tipico. Avevo affittato un bilocale e pagato per il periodo di agosto. All'arrivo nel villaggio ho appreso che ero vittima di un overbooking e non avevo sistemazione. A tutt'oggi non sono ancora stato risarcito. La causa è stata chiusa nel 2011 e allora temo che se la causa, avvocato Bonaguidi, è stata chiusa, forse non avrà nulla. Ma che cosa vuol dire l'overbooking per una casa da prendere in affitto? Ma le agenzie appunto possono anche addirittura affittare lo stesso posto a più turisti? Beh, decisamente no. Ci sono purtroppo, si sono verificati diversi di questi casi statisticamente, credo che i colleghi me lo possono confermare, e è una circostanza, sono circostanze molto particolari che rasentano dei presupposti quasi anche della truffa, sicuramente civilistica e forse con dei risvolti anche penali, se poi vogliamo dirla tutto tondo in punta di diritto. Sicuramente overbooking significa che chi ha venduto quella vacanza, se era consapevole nel momento della vendita di non poterlo fare, siamo proprio alla fattispecie della truffa. Se tecnicamente è successo questo overbooking in un momento successivo, comunque è assolutamente non un disservizio, un semplice disservizio, è un palese inadempimento contrattuale, quindi che prevede la restituzione del prezzo e tutti i danni conseguenziali che si conoscono, il danno da vacanza rovinata in annesso. Ecco, sulla situazione specifica mi preoccupo un po', perché se la sentenza c'è stata nel 2011 e ancora non è stato risarcito, bisognerebbe capire cosa è stato fatto in termini di esecuzione della sentenza vittoriosa ottenuta. Però mi preoccuperei anche che i soggetti passivi, cioè i soggetti che devono pagare, ci siano ancora, siano in grado di pagare. Esatto, l'intermediario che ha venduto appunto questo affitto, questo contratto, chissà dove è finito. Mauro, se vuole, magari ci scriva qualche dettaglio in più. Ecco la neve, ci siamo! Giù, ragazzi! Parlate di me! Voglio fare un pantoccio, voglio fare un pantoccio! Mi scusi, Fini, dov'è la neve? Ma scusi, ragionier Fantozzi, non ha letto il cartello Ortisei! Vuole che non ci sia la neve a Ortisei? Adesso verrà il pulmino e ci porterà sulla neve! L'organizzazione Filini è sempre perfetta! A Filini, Bidè! Chi è? È lui! Questo signore qui! Presente? Ragionier Silvio Filini! La mano, Non la dà? No. Vengono di Italia? Non siamo in Italia qui. Sì, siamo partiti ieri sera. Non sapevate del nostro arrivo? Certo! Ma con voi italiani mai sicuri di niente! Tu li a posto? Scusi professore, una domanda, ma per la neve non sa dove si può andare a fare? No, fai domande da stupidini, eh? Neve non aspetta italiani, Invece di neve, vacanze alternative, modi intelligenti. Tu puoi fare scuole di rocci se piace, o di folklore del Sud Tirolo, o cura dimagrante in nostra famosa clinica. Vacanze alternative, ho detto! Ed eccolo qua, questo era Fantozzi ad Ortisei, tratto da Fantozzi contro tutti. Come sapete, ogni giorno cerchiamo di così animare un po' il nostro programma con qualche brano cinematografico famoso, e oggi appunto abbiamo scelto questo. Allora, intanto state continuando ancora a scriverci per chiederci chiarimenti su come tutelarvi in vacanza qualora le cose non vadano esattamente come vorreste. E Alessio ci scrive su Facebook: sto pensando ad organizzare un viaggio in Perù, sono abituato al fai da te in internet, adesso Pier Giorgio Reggio sta balzando sulla sedia un po' innervosito per cercare di risparmiare il più possibile. Non so fino a che punto, che garanzie mi può dare invece un'agenzia in termini di risparmio e tutele per un viaggio così articolato? Fino adesso è andata sempre bene dal momento che si trattava di mete europee o vacanze in mare, al mare appunto in Italia. Reggio, che diciamo l'ascoltatore, siete pronti per il Perù? Allora, io dico che internet non è una minaccia, anzi è sicuramente uno strumento importante per tutti coloro che lavorano anche nel settore del turismo. È uno strumento di grande informazione, ma bisogna saperlo usare, utilizzare con grande attenzione. Nello specifico, la vacanza in Perù è una vacanza anche molto complessa, perché comunque richiede anche una certa conoscenza della destinazione, le altitudini e quindi l'organizzazione degli spostamenti legati anche alle altitudini delle singole destinazioni è fondamentale. Quindi questo online spesso non riesce a trasferirlo o a trasmetterlo correttamente al cliente finale. Quindi appoggiarsi sempre a un professionista che conosce la destinazione o specializzato sulla destinazione diminuisce così cosiddetto rischio di vacanza, come dire, non adeguata alle esigenze e alle richieste del cliente. Per quanto riguarda la questione prezzo, soprattutto su questo tipo di itinerario cosiddetto tailor made, cioè organizzato su misura, devo dire che non è possibile riscontrare una convenienza particolare sulla vendita online, e laddove invece questo dovesse essere presente farei molta attenzione, perché comunque sia vorrebbe dire che in qualche modo può esserci dietro l'angolo, come dire, la possibilità di una sorpresa. Non è sempre così, perché ci sono anche molti professionisti che lavorano sull'online, però l'appoggiarsi sempre alla vendita tradizionale riduce di molto il rischio di incappare in una vacanza. Io sono stato in Perù, è una vacanza che consiglio assolutamente all'ascoltatore, è una vacanza che però, ribadisco, va organizzata molto bene, con le tempistiche corrette, perché gli sbalzi di altitudine possono creare grossi problemi anche a livello fisico, quindi sapere sempre come si organizza l'itinerario. Che sono tra l'altro sempre quelle cose alle quali difficilmente pensiamo, perché la disavventura regina che ci viene in mente è quella della perdita del bagaglio in aereo, piuttosto che, non so, ecco, l'albergo che non è esattamente quello che risponde alle nostre aspettative, ma sul tema della salute e, come dire, delle condizioni fisiche nelle quali possiamo ritrovarci in posti ovviamente magari molti lontani da noi, è un tema che difficilmente... Sì, raramente viene affrontato, e invece è un tema assolutamente fondamentale, importante. In più, soprattutto in una destinazione come il Perù, bisogna anche sapersi, come dire, appoggiare a un corrispondente locale che abbia comunque una certa capacità di assistenza anche su quelle destinazioni un po' meno battute, un po' più, diciamo, insolite, come dire. Ritorniamo alle disavventure, appunto torniamo a casa dal Perù. Massimo da Mantova, eccoci qua a lei all'800240024, ci racconti che è successo? Sì, intanto buongiorno. Buongiorno. Volevo raccontarvi quello che mi è accaduto quest'anno a giugno. Praticamente io sono il titolare di un'azienda che organizza viaggi incentive per i propri clienti, e sono anni che organizziamo questo. A giugno, tramite la nostra agenzia di fiducia, siamo andati in un villaggio in Sicilia venduto da un ottimo tour operator, e là ci siamo trovati una sorpresa di un villaggio che non è all'altezza delle stelle, del 4 stelle, esatto. Siamo arrivati là, il pullman si è scaricato vicino ai bidoni della spazzatura, sporchi, bagni, mangiare inadeguato, messi fuori al sole, e immagino, insomma, posso far credere, insomma, che in Sicilia il sole della Sicilia a giugno è molto caldo, forte, direi, infatti. Caldo, ecco, sì. Sta di fatto che, per fortuna, come tutti gli anni, con noi viene via la titolare dell'agenzia, la quale di corsa si è lamentata con il responsabile del tour operator, e il giorno successivo ci hanno trasferito in un altro villaggio invece di ottimo Però insomma delle giornate massimo sono andate perse, no? Esatto, noi abbiamo praticamente organizzato il viaggio per una settimana. Lei consideri che tra trasferimento all'altro villaggio siamo arrivati al lunedì sera, partendo la domenica ci siamo mangiati 2 giorni di viaggio. Mm-hmm. Dopo 7 ore di pullman praticamente, perché siamo passati dalla zona della Bassa Sicilia fino a vicino a Taormina. Ah, quindi diciamo non era neanche nei paraggi, no, insomma, la nuova struttura. Perché 40 persone da spostare, magari disponibilità nei villaggi vicini c'era qualcosa, però eravamo in 40. Com'è finita la vicenda, Massimo? Siete stati indennizzati in qualche modo? No, io adesso difatti mi sono mosso con un legale di fiducia. Il tour operator non ci ha risposto ad una prima lettera così di cortesia. Volevo sapere se era il caso di procedere con una causa e quanto poteva essere, andare un po' più a fondo. Quante sono, esatto, le probabilità di ricevere comunque un indennizzo, dato che comunque io ho clienti che alla fine il giorno successivo mi hanno detto: io domani torno a casa, qua non ci resto. Certo, grazie Massimo. Abbiamo 2 legali a disposizione insieme al suo, vediamo se poi le come dire, interpretazioni su come gestire questa faccenda sono uguali. Avvocato Costantini di Astoi, visto che l'ascoltatore appunto ha citato un tour operator a cui ha chiesto di organizzare questo viaggio incentive appunto per i propri clienti. Come può gestire questa situazione il nostro ascoltatore? Guardi, io siccome lui introduceva il tema anche della classificazione della struttura, no? Parlava di un 4 stelle, sì. Allora il primo argomento, il primo tema è quello di non diciamo limitarsi a prendere conoscenza della classificazione ufficiale della struttura, perché è vero che indubbiamente il numero di stelle dalle varie province, dalle varie autorità locali è rilasciato in base a alcuni parametri che debbono essere soddisfatti, ma questi parametri purtroppo cambiano di regione in regione o addirittura di provincia in provincia e quindi non c'è un sistema unico di classificazione nazionale. Quindi oltre che alla classificazione in stelle, starei attento quando acquisto una vacanza, un pacchetto turistico, alla descrizione che viene fatta di quella struttura, che è una descrizione molto dettagliata, ormai insomma i cataloghi li conosciamo, sono veramente molto precisi nel descrivere la struttura e nel descrivere la località. Questo è il primo argomento. Ovviamente ci sono delle obbligazioni basiche che debbono essere rispettate dall'operatore, ad esempio la pulizia dei locali e delle camere, naturalmente il cibo che deve essere di qualità idonea e via dicendo. Quando questi requisiti non sono soddisfatti, sicuramente c'è il diritto per il cliente di ottenere un risarcimento del danno che ha subito. Certo. Però bisogna distinguere, dicevo prima, le aspettative del turista, cioè ciò che il turista si attende da una vacanza in base a una sua, come dire, personale aspettativa, al sogno che ha costruito di andare ovviamente in vacanza per un periodo limitato in un posto molto bello, da quello che l'operatore si impegna certo a fornire. Non credo che sia questo il caso di Massimo, però a volte le due cose non coincidono. Certo. Certamente se non sono rispettati quegli impegni minimi, basici, che qualsiasi operatore dirigente deve assicurare, indubbiamente c'è un diritto al risarcimento. E, peraltro mi sembra che lo spostamento in un'altra struttura fatto qualche giorno dopo l'inizio della vacanza sia anche un implicito riconoscimento di questa responsabilità. Quindi Massimo, vada un po' avanti e ci racconti poi magari se vuole come va a finire. Allora, i disguidi in vacanza possono essere appunto di vario tipo. Ce n'è uno che non abbiamo inserito nella nostra scheda iniziale, e allora per farci raccontare che cosa può succedere se non si ha sufficiente contante con sé nel caso del bisogno, appunto ce lo racconta una nostra collega del Sole 24 Ore, che è Paola Guidi. Paola, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. In vacanza sulla Riviera Romagnola, quindi non è che sei andata, come dire, in Vietnam piuttosto che, non lo so, in Perù, dove trovare un bancomat appunto per ritirare degli euro potrebbe essere appunto molto difficile. Che cosa ti è successo? È successo che tra sabato, domenica e lunedì scorsi. Ah, beh, quindi 3 giorni, ovvio, tutto il weekend, perché lì non è che poi i bancomat si rimpinguano. Sì. se dei 7 bancomat di Gioia Marina e dell'area oltre 7 chilometri di costa, con oltre 100.000 turisti, più a quelli che non si possono contare, perché ci sono in più sicuramente, sono rimasti praticamente a secco. Salvo due bancomat molto lontani l'uno dall'altro, e teniamo conto che qui la maggioranza dei turisti, soprattutto stranieri, arriva in treno perché c'è già la Freccia Rossa e arriva con il pullman. Quindi a piedi o con biciclette sferaglianti, tutti a cercare in gruppo, accaldatissimi, un bancomat funzionante, non l'abbiamo trovato. Ecco, allora il tema qui, come dire, per dare un suggerimento, intanto non andare in giro con tanti soldi appunto nel portafoglio, soprattutto in questi periodi, però un po' tenersene, perché altrimenti si può incappare appunto in un'avventura di questo tipo. Ma so che tu hai interpellato, ovviamente, perché oltre a essere stata la malcapitata protagonista di questa disavventura, so che hai interpellato anche le banche del posto. Ti hanno chiesto che cosa, ti hanno risposto, ti hanno detto che cosa è successo? Ci dispiace molto, siamo rimasti senza contanti. Io sono andata la mattina del lunedì, proprio sono andata in una di queste banche, poi in un'altra ancora, perché non c'era ancora contante, non si poteva prelevare il lunedì. Ma come mai, dico, non l'avete? Ah, noi prima di lunedì, oggi pomeriggio alle 16:30 non possiamo, è proibito, non si può. Ma cosa è successo? Siamo rimasti senza soldi. Una corsa al contante sulla Riviera Romagnola. Questo ci dà ancora una volta la dimostrazione del fatto che in ogni caso gli italiani pagare con la moneta elettronica appunto fanno molta difficoltà, perché tutti vogliono avere i bigliettoni sonanti in tasca. Detto questo, qui è chiaramente stata una circostanza straordinaria. Evidentemente il flusso di persone in queste giornate è stato tale che appunto hanno prosciugato completamente tutti gli sportelli. Paola, grazie per essere stata con noi. Dobbiamo salutare, grazie, e naturalmente ciao. Goditi le vacanze adesso, sei riuscita comunque a prendere un po' di soldini, sì? No, Paola ci ha salutato, evidentemente sì. Allora sentirei Settimo da Milano e poi andiamo appunto ai suggerimenti per chi è in viaggio sulle strade italiane in queste ore. Settimo, buongiorno, cosa le è successo? Buongiorno, era soltanto intanto grazie per l'accoglienza, per segnalare come, contrariamente a quanto evidenziato nei termini e condizioni di acquisto per biglietti con compagnie low cost, si riservano poi queste compagnie a loro insindacabile discrezione, eccetera, di effettuare un accredito, un rimborso o quant'altro, purché le circostanze eccezionali per non usufruire di un certo volo già acquistato e pagato. E niente, le circostanze sono molto ben documentate con una cartella clinica dove il figlio è stato operato perché ha rotto i legamenti e il menisco e quant'altro. La risposta è che gli dispiace molto, eccetera, ma di fronte a eventi eccezionali per i quali loro hanno assoluta discrezione, penso intendano solo certificati di morte o casi di lutto. Quindi praticamente non è potuto partire, da quello che capisco, suo figlio Settimo, per questa rottura dei legamenti del ginocchio, e quindi chiedeva il rimborso del biglietto? Io chiedevo il rimborso o l'accredito del biglietto, perché il volo era soltanto un ritorno da Atene a Milano per il 17. Deduco che in questo periodo loro questo biglietto l'abbiano già venduto 20 volte. Quindi pubblicare termini e condizioni all'articolo 6, dove è previsto che la circostanza eccezionale deve essere documentata, e poi vengono meno dicendo guardi, soltanto siamo una compagnia EasyJet, tanto per intenderci, che non prevede il rimborso, e questo è contrario assolutamente a quanto dichiarato, ed è eclatante la cosa, nell'articolo 6 dei costi e cancellazione e rimborso. Allora Settimo, aspetti lì, adesso interpelliamo i nostri due legali, ma prima sentiamo che cosa succede sulle strade italiane in queste ore. Allora, andiamo all'avvocato Bonaguidi, SOS, avvocato di Telefono Blu. Vabbè, le emergenze sono sempre le stesse. Allora, che cosa rispondiamo al nostro ascoltatore? Allora, a prescindere da quello che è capitato a Settimo, no? Ammettendo che io abbia prenotato una vacanza, il giorno prima mi vengono 40 di febbre, non sono più nelle condizioni fisiche di partire. Appunto, questo viaggio devo annullarlo, ma non ho proprio nessuna possibilità in alcun modo di essere, non dico risarcita, indennizzata, perché in questi casi non vanno bene, ma rimborsata quantomeno per il fatto che non posso fruire della vacanza? Ma direi di sì, perché è una situazione, seppur con le dovute diversità, che ascoltavamo all'inizio quasi della trasmissione con l'altro ascoltatore, l'altra persona che è intervenuta, che ci raccontava della moglie, quindi era una situazione un po' diversa. Qui c'è stato un infortunio, è un infortunio che impedisce il viaggio, perché è una rottura dei legamenti, quindi c'è un impedimento fisico, non è una situazione fisica che deriva da patologie pregresse mediche, come si definisce solitamente, e quindi è una situazione che è assolutamente da rimborsare, e guarda caso infatti era previsto nelle condizioni di contratto. Però questi legamenti non se li è rotti sugli scalini dell'aereo di EasyJet, tali per cui appunto la compagnia deve sentirsi in dovere di rimborsare. La sto provocando, avvocato, e non lo so. No, ma è una provocazione anche che è molto utile, puntuale. Allora attenzione, non stiamo parlando di un risarcimento del danno che si chiede alla compagnia per l'evento sinistroso, assolutamente no. Si sta parlando di un tema del rimborso del prezzo del volo. Ecco, qui mi pare che parlasse di volo e non di pacchetti, sì. Ancora una volta. Ecco. Ed era riportato, è quell'evento eccezionale, sicuramente, a mio avviso. Un rimborso che potrebbe consentire alla compagnia di rivendere quel posto che evidentemente rimane vuoto per il fatto che questo ragazzo non parte. Ma assolutamente sì, adesso non mi ricordo quanto tempo prima è avvenuto. Esatto, perché infatti stavo pensando anch'io, perché se chiaramente la situazione è successa il pomeriggio prima della partenza, Pier Giorgio, Reggio, magari la compagnia potrebbe non essere in grado di rivendere immediatamente il posto, e quindi è chiaro che lì magari il danno se lo devono sopportare a metà. Più complesso, è anche corretto differenziare da pacchetto di vacanza alla vendita, come in questo caso, di un solo biglietto aereo. Certo. In questo caso la vendita di un biglietto aereo, soprattutto nei casi, in questo caso è un caso di una compagnia low cost, spesso nei casi di compagnie linea esistono delle tariffe cosiddette PEX o super PEX che non prevedono il rimborso in caso di annullamento, anche in casi, come dire, di infortunio, ed è in quel caso che spesso il consulente propone un'assicurazione proprio integrativa anche sulla vendita del solo biglietto aereo, che può anche in questo caso intervenire in aiuto del primo ascoltatore che ci raccontava appunto della disavventura della moglie a Santo Domingo. Ci sono delle assicurazioni che possono coprire il consumatore anche se prenota solo un biglietto aereo, sia per quanto riguarda appunto l'annullamento in caso di infortunio, ma anche nel periodo di soggiorno o di permanenza nella destinazione raggiunta, pur non avendo acquistato un pacchetto turistico. Quindi insomma, magari prima di partire, so che non ci piace chiaramente prendere in considerazione che ci possa capitare anche questo, la rottura di un ginocchio, dei legamenti di un ginocchio, piuttosto appunto che la febbre a 40, però insomma, nella rosa delle disavventure possibili ci possono stare anche queste, come quella che è capitata a Ulderico da Ferrara, che era un tema che volevo introdurre all'inizio, poi non ce l'ho fatta, ma Ulderico, prendiamo subito il suo caso al volo, perché anche questo capita purtroppo, e qui sì che ci dobbiamo arrabbiare con gli albergatori. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica, che è successo? Ascolti, mi scusi, io sono andato a fare delle cure, no? Sì. Diciamo, al momento sono uscito dalla piscina, sono allo spogliatoio, e mi sono cambiato e poi di corso sono andato a fare le inalazioni, e al momento delle inalazioni, una struttura termale, quindi Ulderico, sì, al momento delle inalazioni e la rosciò, guardavo se l'orologio, se per vedere 10 minuti di tempo, cioè, insomma, in quel momento arrivava a cercare, non c'è più l'orologio, quindi praticamente è scomparso il momento che ero lì allo spogliatoio. Allora, io mi assentavo proprio un secondo, siccome attivo, c'era un bagno, e andavo un secondo a fare una cosina, insomma, velocissima, e nel frattempo entrava uno che secondo me, eravamo solo io e lui. Certo, secondo era lei. Era lui, perché ci vuole il tempo. Vabbè, morale, insomma, si è lamentato, ha denunciato il fatto all'albergatore. Ecco, allora sono andato alla direzione, perché tu guardi, ho detto rubato, dice no, ma rubato, cioè, lei vada dal poliziotto, dalla carabiniere e faccia la denuncia. Io sono andato ai carabinieri e ho detto, guardi, le spiego le cose come stanno, perché magari uno dice rubalo, dice non si può dire. Allora io spiegavo, dico, siete voi gli uomini della legge, dico, quindi se siamo in due non scappa mica, insomma, ah, ma non si può dire, lei non può dire rubato, perché non ha visto che ha messo le mani dentro la sua... le tasche del suo accappatoio. Ulderico, guardi, devo salutarla perché ho anche altri ascoltatori. Il caso lo abbiamo capito, lo commentiamo, appunto, a parte questo caso specifico, addirittura un malvivente che infila la mano nella tasca dell'accappatoio dell'ascoltatore mentre stanno facendo le cure termali. Peggio è quando invece è all'interno della nostra camera d'albergo che il furto appunto viene perpetrato. In questo caso, avvocato Costantini, vengo da lei, appunto, come ci si deve comportare? Intanto bisogna dimostrare che prima si avevano degli oggetti in camera e magari, che ne so, consegnare un elenco alla persona che ci affitta, che ci dà la camera, appunto l'albergatore. Cosa dobbiamo fare in questi casi? Guardi, c'è una responsabilità dell'albergatore per qualsiasi deterioramento di una cosa portata in albergo o anche sottrazione di questa. Quindi indubbiamente una borsa o altri oggetti di valore contenuti nella camera sono coperti da questa responsabilità. C'è un limite risarcitorio che prevede il codice civile, che è quella del valore ovviamente del bene che è sottratto, sino all'equivalente di 100 volte il prezzo della camera per giornata, quindi c'è un limite risarcitorio che naturalmente ovviamente può essere opposto dall'albergatore. Invece è limitata la responsabilità dell'albergatore quando il bene sottratto gli è stato consegnato in custodia o quando ha rifiutato di ricevere in custodia il bene che invece aveva l'obbligo di accettare, e ha l'obbligo di accettare in custodia il denaro, gli oggetti di valore, le carte di credito ed altro. Quindi indubbiamente c'è una ipotesi di responsabilità dell'albergatore. Anche nel caso che abbiamo sentito, ci sta dicendo? Sì, sì. A mio parere sì, perché la responsabilità non è limitata ai beni che sono custoditi nella camera d'albergo, che è appunto prenotata, ma in generale a tutto ciò che è portato all'interno dello stabilimento alberghiero. E quindi insomma l'ascoltatore come si deve comportare in questo caso? Ampliare la denuncia. Il problema secondo me potrebbe essere quello della prova della sottrazione, nel senso che lui deve dimostrare di aver portato ovviamente il bene all'interno dell'albergo e che gli è stato sottratto mentre si trovava all'albergo. Può ovviamente fare un'azione civile nei confronti dell'albergatore, eventualmente supportata dalla denuncia penale contro ignoti che può aver sporto. Però, insomma, i carabinieri nella denuncia gli hanno messo smarrimento lì, in realtà forse non era il caso di firmare questo documento. Allora, un ultimo caso, lo sentiamo, quello di Rossella da Milano e poi andiamo verso la conclusione del nostro programma, cercando di non deprimere troppo i nostri ascoltatori, perché adesso noi abbiamo così fatto una trasmissione che vuole solamente mettervi in allerta su tutte quelle disavventure che possono capitare, ma noi speriamo chiaramente che invece vi possiate godere tutti al massimo le vostre vacanze meritatissime quest'anno più di forse tutti gli anni passati. Allora Rossella, buongiorno, in questo caso abbiamo un noleggio di un'imbarcazione. Sì, buongiorno. Ci dica. Allora, io con i miei genitori l'anno scorso ho noleggiato una barca tramite un charter internazionale, una barca a punta ala. La barca, all'atto del check-in, dalle due è stato firmato che mancava GPS, e per chi si intende di imbarcazione può rilevare quanto è importante, e pilota automatico. Rossella, però la sentiamo malissimo, può avvicinare un po' di più la cornetta alla sua bocca? Non so se... perché sentiamo molto rumore in sottofondo. Quindi sente meglio? Molto meglio, grazie. Oh, perfetto, perché avevo l'auricolare. Ah, ecco. E quindi all'atto, ripeto, del check-in è stato rilevato che mancava il GPS dopo che il tecnico è venuto lì un po' di volte, eccetera. Abbiamo scoperto che addirittura le cartucce erano arrugginite, i denti dove andavano dentro le cartucce. Rossella, che cos'è il GPS su un'imbarcazione? Il GPS è quello strumento che ti permette di vedere dove sei, stai andando, cosa stai facendo. Una sorta di navigatore satellitare dell'imbarcazione. Una sorta di navigatore e il pilota automatico. Noi siamo arrivati dopo due o tre giorni in un altro porto. Quando siamo arrivati al porto, il responsabile ci ha detto che avrebbe avuto un GPS portatile, ma che in realtà si è dimenticato di darcelo, e per mille altre disavventure. No, ma leggo anche dalle anticipazioni che mi hanno fatto le ragazze del centralino, che salutiamo, che in cabina c'è stata anche un'altra spiacevole sorpresa. La disavventura più grossa è che io ospito una mia carissima amica, e la mia carissima amica alle 4 di notte schizza fuori dalla barca piena di piattole. No. La cabina era piena di piattole, non solo, ma dato che la cabina non era stata usata giorni prima, io non mi ero accorta che addirittura sulle pareti c'erano già strisciate di sangue. Oh, signore mio. Vuol dire che i precedenti che l'aveva noleggiata avevano già trovato questi. Rossella, devo andare verso la conclusione. Com'è finita questa vicenda o non è ancora finita? No, non è ancora finita. Vorrei capire come io posso farla finire, perché loro mi hanno proposto un'altra barca che logicamente io quest'anno sanno, me ne guardo bene di prendere, non mi hanno dato nessuna risposta riguardo un risarcimento, anzi hanno temporeggiato, è un anno che mando mail, temporeggiato dicendo il tizio non si trova, il caio non si trova, il padrone non risponde. Rossella, guarda, aspetti lì, sentiamo, avvocato Bonaguidi, va bene non come dire avere la disponibilità del navigatore, ma le piattole no. Queste no, non le possiamo tollerare. Diciamo che è un caso, non vorrei essere presuntuoso, ma è un caso abbastanza semplice. In 30 secondi me lo deve risolvere, una ringa finale immediata. Chi ha venduto questa barca, quindi questa vacanza con la barca, deve risarcire la signora. E senza neanche tanto fiatare, direi. Ecco. Senza neanche tanto fiatare, e probabilmente qui è un problema solo di quantificazione del danno, ecco. Ma non un problema nel senso che sarà solo da dare la giusta quantificazione, per il resto sui diritti non si discute. Bene, ecco, Pier Giorgio Reggio, concludiamo. Allora, intanto, le località più gettonate quest'anno, secondo il vostro network, quali sono state? Grecia, Sicilia, Spagna e le solite? O... Sì, per quanto riguarda le destinazioni medio-corto raggio, quelle che hai appunto appena elencato, sul lungo raggio sempre molto bene gli Stati Uniti, che comunque continuano a farla un po' da padrone. L'Egitto, nonostante la situazione difficile di quest'ultimo periodo, ha continuato comunque a mantenere un flusso ancora importante. Insomma, siamo fiduciosi e speranzosi nella chiusura di una. Allora, di una a termine, buona alla fine di agosto, faremo un'altra trasmissione su tutte le cose che vi sono andate molto bene invece in quest'anno di vacanza, perché è un po' difficile per tutti. Grazie a Pier Giorgio Reggio, l'avvocato. Grazie Vittorio Bonaguidi e l'avvocato Alessio Costantini. Salva Danaio termina qui, ci sentiamo stasera alle 17 a Focus Economia. Buona giornata a tutti.